Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore. Guardie o ladri? Mi ringrazio, ogni tanto lo faccio, tutti, perché è molto molto visitato e di questo ne sono felice per i temi che tratto. Mi fanno davvero molto molto piacere anche i commenti, le critiche e anche le proposte, quindi sono sempre benvenute. Anche gli insulti, li prendo ben volentieri, anche perché mi so difendere bene. Io non querelo mai, rispondo sempre a tono quando necessario, e quindi mi fa piacere avere anche degli scontri duri. Ultimamente ne abbiamo avuti su diversi post che ho scritto con voi lettori. Grazie comunque. Allora, avrete sentito alcune settimane fa di un traffico di falsi diplomi che è stato sventato dalla magistratura e che, diciamo così, era nelle regioni Calabria e Sicilia. È stato sventato, molte scuole sono state sequestrate, ma il vizio sembra riaffacciarsi di tanto in tanto, non soltanto al sud, per carità di Dio. Tanto che è passata un po' sotto silenzio una notizia che io ho trovato su un giornale locale calabrese, il cui titolo è già tutto un programma, ve lo leggo. Medico in un giorno con 30.000 euro. A San Costantino Calabro la fabbrica delle false lauree, sequestri e 4 indagati. Ci troviamo in provincia di Vibo Valentia e la notizia è stranamente passata sotto silenzio, perché la cosa a me sembra gravissima, perché mettersi nelle mani fiduciosi, nelle mani di un medico che tale non è, francamente la trovo una cosa raccapricciante. Già sappiamo che spesso in Italia ne succedono di tutti i colori, quando ci si affida a strutture serie, figuriamoci quando abbiamo di fronte un truffatore ed un vero e proprio delinquente. Onore a chi ha denunciato questa cosa, e noi l'abbiamo con noi in linea, perché il presidente dell'Ordine dei Medici di Vibo, Michele Soriano. Buongiorno Soriano. Buongiorno. Allora, ci spieghi un pochettino che cosa è successo a San Costantino Calabro. Guardi, io ho fatto delle verifiche sugli iscritti, chiedendo alle università dove si erano laureati o conferma della loro laurea. Il tutto era partito da una certificazione che ci aveva lasciato qualche sospetto, in quanto avevamo visto che due iscritti, nati rispettivamente a Catania e a Roma, erano stranamente residenti fin dalla nascita nella stessa casa di San Costantino. Da questo abbiamo pensato che non fosse sicuramente una cosa regolare, abbiamo avviato una indagine interna chiedendo conferma alla università, che è l'Università di Messina, in cui loro dichiaravano di essersi laureati e che avevano presentato da questa università certificazioni false. Ah, quindi voi avete fatto un po' gli investigatori, devo dire complimenti, siete stati bravissimi. Perché siamo riusciti a scoprire questi falsi iscritti. Poi da una nostra indagine interna siamo andati a verificare un poco tutti gli iscritti degli ultimi 5 anni e abbiamo recuperato un altro nome che era stato iscritto nel 2007 e che esercitava la sua professione di medico a Genova. E anche lui aveva a che fare con questo paese San Costantino Calabro? Lui era residente fin dalla nascita in questa casa. Quindi, ricapitolando, voi avete scoperto, davvero bravi, che in una stessa casa di San Costantino Calabro, che suppongo sia un buco di paese, un paese di 3.000 abitanti, ecco, circa, appunto, dove probabilmente si conoscono tutti anche per soprannome, avete scoperto che nella stessa casa erano nate 3 persone laureate in medicina, tutte e 3 a Messina, una residente a Genova, una residente stranamente residente, ecco, tutti fin dalla nascita in quella casa. Ecco, fantastico, veramente bravi, perché questo qua ci ha insospettito. Chiaramente insospettito, e da qui partita l'indagine, la richiesta di convalida della laurea alla Università di Messina, e avendo avuto risposta negativa abbiamo denunciato ai carabinieri. Ecco, ma secondo lei, ovviamente lei è a capo dell'Ordine Provinciale dei Medici di Vibo Valentia, ma a suo giudizio in Regione Calabria Possono esserci altri casi di questo genere? Io sono sicuro che casi del genere ci siano non solo nella regione Calabria, ma anche nel Piemonte o nel Lazio o in infatti lei ha dichiarato. Dovrebbe essere variata la legge che regola l'iscrizione all'ordine. Ecco, infatti di questo lei lo ha anche denunciato pubblicamente su questo giornale dal quale io ho tratto la notizia, che è Calabria Ora. Ha detto: chissà quanti sono in Italia i falsi laureati. Allora, visto che io apprezzo molto il tentativo e anche le iniziative riuscite di fare pulizia in casa propria, e quindi invito ovviamente non soltanto l'Ordine Nazionale dei Medici a farlo, ma anche il mio ordine, quello dei giornalisti, perché purtroppo i malfattori sono ovunque, ho il piacere di avere collegato con noi il dottor Amedeo Bianco, che è presidente nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici, dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Buongiorno Bianco. Buongiorno a lei, ascoltatori. Allora, io direi, risponda lei alla domanda che fa retoricamente il suo collega Soriano, cioè: ma quanti saranno in Italia i falsi laureati in medicina, in chirurgia o in odontoiatria? Diciamo che è difficile fare dei numeri precisi. Vorrei però, insomma, forse in qualche modo tranquillizzare, nel senso che si tratta di fenomeni che ci sono purtroppo, però abbastanza marginali. Io ovviamente parlo come presidente del mio ordine di Torino, perché la competenza è degli ordini provinciali, certo, della Federazione Nazionale. Beh, anche a noi capita, siamo un ordine che ha circa 14.000 iscritti, anche a noi capita, diciamo, ogni tanto, e facciamo un'attività sistematica di controllo, perché è proprio qui poi il segreto. In dubbio. Nel senso che tutte le iscrizioni ovviamente devono essere validate da una certificazione idonea e trasparente dei titoli acquisiti. Diciamo che qualche problema che noi abbiamo avuto risale a medici di una, come dire, piuttosto anziani, ecco, come età anagrafica, nel senso di iscrizione all'albo. Quelli più recenti pongono qualche problema, per esempio magari qualche riconoscimento di titoli acquisiti all'estero. Ho capito. Questo può essere un'operazione nuova, più truffaldina, legata, certo, un po' alla, che sfuggono, che aggirano i controlli che il Ministero della Salute fa, e siamo proprio di fronte a dei veri e propri falsi. Ecco, ma io vorrei chiederle questo, dottor Bianco, e mai come in questa occasione il titolo di dottore è giusto, perché in Italia un dottore non si nega a nessuno, no? Siamo tutti dottori, però in questo caso è davvero così. Diceva Soriano, il suo collega Soriano, che forse va rivisto la modalità di iscrizione. Ecco, lei che cosa ne pensa e perché il suo collega Soriano ha lanciato questa provocazione? Diciamo che le regole dell'iscrizione all'albo risalgono ad una legge che ormai ha superato i 60 anni, è del 1948, no? Quindi si riferisce probabilmente ad un circuito di formazione, di certificazione, eccetera, piuttosto datato. Noi siamo degli enti legificati da questo punto di vista, e quindi ovviamente bisognerebbe cambiare il regolamento, rendendo più vincolanti quelle procedure di verifica. Tenga presente che il bravo collega Soriano, insomma, ha fatto quello che è il suo dovere, un'attività sistematica di revisione della certificazione, le sospette le ha approfondite, quello che facciamo praticamente anche noi. Noi in modo sistematico chiediamo la verifica presso gli enti che l'hanno rilasciato di tutte le certificazioni prodotte. E questo è corretto. All'atto della prima iscrizione. Ecco Bianco, ma anche perché siamo gli unici enti di fatto idonei, abilitati e in grado di fare questo tipo di controllo, perché insomma abbiamo verificato che molte aziende, alcune aziende, perché adesso non esageriamo il fenomeno, alcune aziende si sono trovate tra i propri dipendenti e dirigenti persone mai laureate in medicina chirurgica. Sì, ma infatti non hanno mai fatto una verifica, insomma. Certo. Ecco, siamo onesti. Certo, no, ma infatti il problema è sempre quello dei controlli, perché in Italia spesso le leggi sono perfette sulla carta, ma poi cadono quasi sempre proprio proprio sulle cosiddette inezie, che poi tali non sono, perché quello dei controlli è un tema vitale per nella nostra legislazione. Allora io ringrazio ovviamente il dottor Amedeo Bianco, che è a capo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri, e ringrazio il suo collega Michele Soriano, che ha verificato, controllato correttamente l'inesistenza dei titoli attribuiti ad alcuni medici nella sua provincia, li ha smascherati e denunciati, facendo bene il suo dovere e di cittadino, dico innanzitutto. Quindi li ringrazio, ringrazio in regia Fabio Cantadori e in studio Antonella Migliaccio, e Roberto Calullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.